Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi a Destini incrociati vi raccontiamo una storia incentrata sul concetto di divismo. Che cos'è? Cosa si intende esattamente con questa parola? Come si può spiegare questo fenomeno così sorprendente? Cerchiamo di andare alle radici di questo concetto, raccontandovi una delle vicende più celebri e significative ad esso legate. Il divismo, letteralmente, indica una sorta di processo di divinizzazione che una determinata società o una porzione di essa effettua nei confronti di un uomo o di una donna celebri e importanti. Praticamente ciò che facevano gli imperatori romani da Augusto in avanti, definiti divi, che diventavano dei veri e propri dei che il popolo doveva venerare e riverire. Oggi per divismo si intende soprattutto la celebrazione e il culto degli attori cinematografici, in particolar modo quelli americani, i divi di Hollywood. Il divismo cinematografico, soprattutto quello dell'industria americana, risale agli albori della storia del cinema ed è nato quasi contemporaneamente alla settima arte. È bene dire quasi perché fino all'inizio degli anni 10, cioè al quindicesimo compleanno del cinema, pochissimi attori lavoravano stabilmente nel cinema abbastanza da essere riconosciuti dal pubblico. Inoltre, fatto che oggi può sembrare sorprendente, gli attori non venivano inseriti nei titoli di testa e di coda dei film, rendendo di fatto impossibile un rapporto di fidelizzazione tra spettatore e attore. A partire dagli anni 10, l'industria del cinema muto americano prende quota. Nasce il cosiddetto show business, con le case di produzione e distribuzione che assumono un controllo sempre più rigido e sempre maggiore su tutti gli aspetti del processo realizzativo. I contratti degli attori iniziano ad allungarsi, le facce sullo schermo sempre più frequenti, i sogni di celluloide del pubblico tangibili e concreti. Nascono i primi veri divi del grande schermo, nomi oggi sconosciuti ai più. Florence Lawrence, attrice spesso utilizzata da David Wark Griffith, pioniere del cinema americano. Florence Turner o Maurice Costello, il primo grande rubacuori del grande schermo ribattezzato Fossette. Sono le prime star. I loro nomi compaiono nei titoli di testa solo a partire dal 1914, ma gli spettatori, determinati a scoprire di più sui loro beniamini, chiedono informazioni ai gestori delle sale e scrivono agli studios. Gli atri dei cinema iniziano ad essere tappezzati di foto delle star, che diventano un elemento fondamentale dell'arredamento. Nasce anche la prima rivista di colore destinata ai fan e dedicata ai divi, The Motion Picture Story Magazine. È nato il divismo cinematografico, seppur in forma embrionale. Nel frattempo, nasce anche Hollywood. L'alta concentrazione di studios nella celebre zona Los Angelina si realizza a partire dal 1910. L'industria cinematografica americana è dominata dalla MPPC, che monopolizza i brevetti più importanti delle macchine per fare cinema. L'unico stato in cui questo monopolio non è legalmente riconosciuto è la California. I produttori indipendenti, quindi, si spostano lì e scelgono Hollywood per il clima favorevole e per la vicinanza con il deserto di Mojave, scenario perfetto per il genere più amato, il western. Nasce il divismo con le prime star e nasce Hollywood. Quello che manca ora è il primo grande divo, la prima figura in grado di stordire davvero le platee, di fare innamorare e sognare milioni di spettatori, magari in tutto il mondo. E andiamo a cercarlo, allora, e trasferiamoci in Italia alla fine del XIX secolo. Siamo in Puglia. L'Italia è da poco entrata nella sua nuova dimensione unitaria. Unità però non significa affatto omogeneità. Così il bel paese si ritrova subito ad affrontare la cosiddetta questione meridionale, la netta spaccatura tra nord e sud in termini di avanzamento industriale, di alfabetizzazione, di disponibilità economiche e di possibilità. Giustino Fortunato, scrittore intellettuale che si occupa in quegli anni proprio di queste problematiche, scrive così. Nessuno più mette in dubbio che esista una questione meridionale nel significato economico e politico della parola. C'è fra il nord e il sud della penisola una grande sproporzione nel campo delle attività umane, nella intensità della vita collettiva, nella misura e nel genere della produzione e quindi per gli intimi legami che corrono tra il benessere e l'anima di un popolo, anche una profonda diversità fra le consuetudini, le tradizioni, il mondo intellettuale e morale. Tutto ciò è da mettere fortemente in relazione con un fenomeno ben preciso dell'Italia della fine dell'Ottocento, l'emigrazione verso le Americhe. Da una delle città più ricche di storie di fascino dell'Italia meridionale, Napoli, salpa una barca. Destinazione, come tante altre, Ellis Island, dirimpetto alla grande New York. Su questa barca c'è il nostro primo personaggio di oggi. Per quanto destinato alla fortuna e alla fama, non è il divo della nostra storia, ma colui che intersecherà la propria vicenda a quella di una futura star, dando il proprio contributo per renderla tale. Si tratta di Domenico Savino. Domenico Savino. Domenico Savino, in arte D. Onivas, pseudonimo ricavato leggendo il cognome al contrario. Ma chi è Savino? Beh, stiamo parlando di colui che forse può essere definito il più grande direttore d'orchestra e compositore jazz italiano. Italiano, sì, perché Savino viene da una delle regioni più belle d'Italia, la Puglia. In particolare, da Taranto. Taranto, la città dei due mari, il Mar Grande e il Mar Piccolo. Il primo è il Mar Ionio, il secondo è il Golfo Interno, delimitato da Capo San Vito e dalle isole Cheradi. Alla fine dell'Ottocento la città pugliese appare ricca di contraddizioni, fastosa e benestante da un lato, premiata anche dalla costruzione voluta da Umberto I, povera e misera dall'altro, se si fa riferimento alle centinaia di famiglie che vivono in condizioni di precarietà. Cataldo Savino e Adele Foresio sono due giovani tarantini, due artisti, compositore e pittore lui, pianista lei, entrambi appartenenti allo scarno ceto medio dell'Italia meridionale. Intorno alla metà dell'Ottocento si sposano. Il 13 gennaio del 1882 nasce Domenico, il loro primogenito, che trascorre la sua infanzia in un ambiente di artisti, come ricorderà lui stesso anni dopo. Ricordo che quando ero molto piccolo, casa nostra era frequentata da artisti di ogni tipo. Musicisti, cantanti, pittori, poeti. Devo dire però che ciò che mi suggestionava maggiormente, fin dalla tenera età, era la musica. Il canto, il pianoforte, la composizione esercitavano un'attrazione quasi magnetica su di me. Con notevole sforzo economico da parte dei genitori, Savino, intorno ai primi del Novecento, frequenta il Regio Conservatorio di Napoli. Lì studia in un primo tempo pianoforte, diplomandosi con il massimo dei voti. Poi si dedica alla direzione d'orchestra, infine alla composizione. Il risultato è una preparazione completa e omogenea, che unita a una mente brillante, aperta e curiosa, fanno di Domenico Savino un talento puro e precoce. Insieme al talento e alla bravura crescono le ambizioni di Domenico Savino. La realtà dell'Italia meridionale, però, sta decisamente stretta al giovane musicista, che decide di seguire l'esempio di tanti coetanei cresciuti in famiglie con molte meno opportunità della sua, varcare l'oceano e tentare la sorte negli States. Così, nel 1917, data tuttavia mai confermata, Domenico Savino parte da Napoli alla volta di New York, con un po' di lire in tasca e gli occhi pieni della sua terra, che osserva dal ponte della nave con qualche lacrima a bagnare il saluto, con il fazzoletto bianco dei suoi familiari. Abbandoniamo per qualche istante la vita e la carriera di Domenico Savino. Lo ritroveremo tra un po'. Torniamo a Taranto, nel 1904. In quell'anno si trasferisce a Taranto da Castellaneta una famiglia come tante, la famiglia Guglielmi. Il capofamiglia, Giovanni, è un veterinario appassionato di filatelia e convinto, chissà perché, di avere origini nobili. Castellaneta, cittadina meravigliosa e austera, è però anche terra di briganti in questo periodo. Non esattamente roba da nobili, secondo Giovanni Guglielmi, che prende la famiglia e la sposta nella vicina Taranto. Il destino vuole che Giovanni, dopo solo un anno di permanenza a Taranto, muoia, lasciando la moglie Beatrice e i tre figli in grosse difficoltà. Il secondo di questi, che si chiama Rodolfo Alfonso Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi, una sfilza di nomi che sottolineano le manie nobiliari del padre, finisce a Perugia presso l'ONAOSI, cioè l'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani. Finisce in collegio, in poche parole, a soli 11 anni. Ma chi è questo sfortunato orfano e cosa c'entra con Savino? Il legame con il musicista pugliese lo sveleremo tra poco. Il nome con cui il fanciullo diventerà noto ve lo diciamo subito. Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino. Impensabile credere che quell'orfanello sarebbe diventato il primo vero sex symbol moderno della storia e uno degli uomini più desiderati di tutti i tempi. Tanto più che Rodolfo, quando è bambino e ospite del collegio, viene deriso dai compagni proprio per il suo aspetto fisico non proprio aitante. Lo chiamano il pipistrello per via di enormi orecchie a sventola. Rodolfo è un irrequieto per natura. Una natura resa ancora più turbolenta dalle circostanze della vita. A 13 anni viene espulso dal collegio. La leggenda dice per avere ferito alla testa un istruttore che lo aveva sgridato con modi troppo veementi. Tenta di entrare nell'Accademia della Marina a Venezia, ma viene scartato per problemi fisici e di vista. Si diploma a Genova, in agraria, nell'Istituto Bernardo Marsano di Sant'Ilario e infine torna poi a Taranto. Nella città pugliese viene educato in maniera efficace e delicata dalla madre Beatrice, che è francese. La donna gli impartisce principi e insegnamenti lontani anni luce dalla chiusura mentale dei suoi coetanei, pugliesi doc, in un'Italia meridionale ancora troppo contraddittoria. Rodolfo impara il francese, impara ad essere europeo e cittadino del mondo. Attratto da ciò che si può celare oltre i confini italiani, per lui arriva anche il momento della prima fuga all'estero. Parigi, la meta della prima folgorante sortita fuori comune. Qui Rodolfo impara a ballare, ma soprattutto impara la vita. È diventato un giovane prestante e fascinoso e impara a usare tutto il suo charme nel migliore dei modi, soprattutto quando l'eredità paterna si prosciuga interamente e il giovane rimane senza soldi. Quando rientra a forza a Taranto, il salto è tremendo. Dalla Ville Lumière alla Puglia del primo Novecento, per un ragazzo di ampie prospettive, è un passaggio intollerabile. Quello che succede nel frattempo è che Beatrice Guglielmi, madre di Rodolfo, ha stretto amicizia con la famiglia Savino. La madre di Domenico racconta a un estasiato Rodolfo i progressi di suo figlio oltreoceano. Rispetto a dove l'avevamo lasciato, infatti, Domenico Savino ha fatto molta strada, diventando un jazzista rinomato e considerato. Ascoltavo quei racconti a bocca aperta. Sentendo parlare di New York e di quell'ambiente, mi convinsi che il mio futuro dovesse necessariamente essere là. Così mi decisi a partire. È il 1913. Rodolfo Guglielmi, l'uomo che diventerà Rodolfo Valentino, parte da Napoli alla volta di New York. Con lui pochi soldi, una valigia di cartone, tante speranze e Salvatore Giolitti, un carissimo amico, forse qualcosa di più di un amico, secondo il biografo Leo Pantaleo. Chissà, fatto sta che Rodolfo sbarca nella Grande Mela nel dicembre del 1913. Viene folgorato dai ritmi avvolgenti della città della East Coast, si abbandona alla vita notturna sfrenata dei locali di Manhattan e sperpera tutti i soldi di cui dispone. A questo punto la sua vita e quella di Domenico Savino sono destinate a incrociarsi di nuovo e sarà il crocevia decisivo. L'Italy può diventare un posto difficile, con i crampi allo stomaco e senza un tetto sotto cui dormire. Rodolfo Guglielmi si ricorda di quei racconti della famiglia Savino sui successi di Domenico, pianista nella Grande Mela. Fuori dal Maxim, il locale in cui Domenico si esibisce, fa freddo. Rodolfo aspetta il conterraneo, si presenta, gli racconta la sua storia, chiede aiuto. Non sa che da quell'incontro casuale, forse un po' umiliante, sta per nascere un mito. Il mito di Rodolfo Valentino. Forse non tutti sanno cosa sia un taxi boy. Si tratta di fatto di un taxi danzante. Nei locali dei ruggenti anni 20 o poco prima è una figura molto diffusa. Le signore sole che volessero ballare possono noleggiare un ballerino e danzare spensieratamente. Rodolfo ha imparato a ballare durante la sua fuga a Parigi. Così quando Savino gli chiede per poterlo aiutare cosa sapesse fare, questi risponde tirando in causa il ballo. Il caso vuole che al Maxim cerchino proprio un taxi boy, due pasti e tutte le mance, questo è il compenso. «Hai un abito adeguato?» chiede Savino a Rodolfo. «No», la risposta. I due hanno taglie simili. Savino presta al futuro attore un tight e lo fa assumere nel locale. Crede di avere aiutato un povero connazionale immigrato a sbarcare il lunario. Ha appena dato i natali a un mito immortale. Sguardo magnetico, carnagione scura, un fascino esotico irresistibile. Le donne di New York fanno la coda fuori dal locale per ottenere un ballo con Rodolfo Guglielmi. Si dice che Rodolfo arrotondi lo stipendio praticando anche l'attività di gigolò. Insieme ai soldi arrivano fama, scandali e quello pseudonimo Valentino di cui ci si è sempre chiesti l'origine. Lo stesso Rodolfo ricorda così quel periodo. A New York passai nel giro di poche settimane dalla fame alla fama, quasi senza accorgermene, senza capire cosa stesse succedendo. In poco tempo fui in grado di restituire a Domenico Savino il tight che mi aveva prestato e di noleggiare abiti eleganti. Tutto nasce da quel tight, insomma. Per un po' di tempo Savino e Valentino fanno coppia al Maxim. Uno suona, l'altro balla. Fuori dal locale la gente si ammassa. Poi il primo fa il grande salto. Lascia le esibizioni nei locali e diventa, anche grazie a quel grande momento di notorietà, uno dei compositori più affermati della East Coast. L'altro, invece, è costretto a scappare. Qualche relazione scomoda, infatti, come quelle con le ballerine Bonnie Glass e John Sawyer, entrambe sposate, e voci su presunte storie omosessuali, lo spingono a emigrare in California, San Francisco. Questo nuovo trasferimento è decisamente diverso dal precedente. Questa volta Valentino ha le tasche e la pancia piene, è famoso e ha gli agganci giusti. Lo ricorda il suo biografo Pantaleo. A San Francisco fu ingaggiato da un vecchio amico, Norman Kerry, che aveva conosciuto a New York in una compagnia teatrale. Recitava e ballava. E anche in questo caso i teatri si riempivano di fan adoranti, accorse solo per lui. Dato il successo ottenuto sul palcoscenico, Kerry consiglia a Valentino di trasferirsi a Hollywood. Gli fornisce nomi e indirizzi. L'ingresso di Valentino nella Mecca del cinema lo lascia letteralmente sbalordito. La prima volta che misi piede a Hollywood fu incredibile. Attraversavo il lungo viale che tagliava gli studios ed era un brulicare di attori e comparse nei costumi più incredibili, mestieranti che portavano pezzi di scenografie. Sembrava davvero di essere entrati in uno scenario da sogno. Data la sua straordinaria bellezza e il suo incredibile fascino latino, Valentino non ha problemi a inserirsi nel mondo del cinema. All'inizio sono piccole parti, comparse, ruoli minori. I produttori però si accorgono subito di una cosa che ha dell'incredibile. Anche se Valentino ha pochissime pose, c'è un'ampia fetta di pubblico femminile che inizia a seguirlo, che affolla le sale solo per emozionarsi davanti a un unico sguardo dell'attore pugliese. Così non può che arrivare il primo ruolo da protagonista. È il 1921. I quattro cavalieri dell'Apocalisse di Rex Ingram, tratto dal bestseller omonimo di Vincente Blasco Ibáñez, si apre con una scena che ha segnato la storia del cinema. Julio Desnoyers, interpretato da Rodolfo Valentino, si esibisce in un tango mozzafiato con la bella Madariaga, interpretata da Pomeroy Cannon. È una scena di una sensualità torrida, soprattutto se rapportata ai tempi. Le spettatrici americane vanno letteralmente in delirio. Dopo l'uscita del film, arrivano all'attore 10.000 richieste di matrimonio. Fuori dai cinema ci sono code di donne che arrivano a rivedere il film fino a 30 volte. I tempi della fame e dell'abito prestato da Savino sono ormai lontanissimi. Valentino alza il suo cachet fino a $1,000 la settimana, un record assoluto. È nato il primo grande divo dell'era moderna, amato dalle folle, travolto dagli scandali. Il suo biografo Pantaleo racconta così questo periodo controverso. Valentino, che anni prima aveva sposato per mera convenienza reciproca la ballerina Jean Ecker, sposò in seguito un'altra donna, di cui si diceva fino a quel momento fosse lesbica, Natasha Rambova, la quale non era russa, bensì l'americanissima figlia adottiva del milionario produttore di cosmetici Richard Hudnut. Le nozze furono celebrate in Messico di nascosto il 13 maggio 1922, ma i giornalisti lo scoprirono. E scoprirono anche che legalmente Valentino era un bigamo, già che per un cavillo legale il suo primo matrimonio con Jean Ecker non era stato a tutti gli effetti ancora annullato. Rudy, al suo ritorno sul suolo statunitense, fu incarcerato e subì anche un processo che suscitò molto scalpore. Per lui fu un vero trauma. Avvertiva che all'amore delle fan si accompagnava l'astio diffuso nei suoi confronti, soprattutto dovuto alla sua immagine di straniero. Sui giornali veniva spesso ridicolizzato con la definizione di gigolo esotico dello schermo. All'apice del successo, all'apice degli scandali. La vita di Rodolfo Valentino sembra destinata ad essere una lunga cavalcata nella gloria. Non tutti sanno che l'inizio della sua carriera è legata a un episodio curioso, a un incrocio con la vita di un altro emigrante pugliese, Domenico Savino, musicista e compositore, che per solidarietà tra emigranti lo fa assumere nel club in cui suona e gli presta un tight. Poi la carriera del musicista decolla fino a renderlo uno dei compositori più importanti di New York. Per Rodolfo Valentino arrivano la fama, il teatro e infine il cinema, nel 1921, con i Quattro Cavalieri dell'Apocalisse. Gli scandali per il matrimonio nascosto con Natascia Rambova, le accuse di bigamia e di omosessualità, l'adorazione quasi morbosa di milioni di fan scatenate. Rodolfo Valentino è il primo divo della storia della cultura pop. L'attore influenza anche la moda, capelli, abiti, scarpe, tutto può essere portato alla Valentino. La Dunata di Napoli, 24 ottobre 1922, coronata dal magnifico discorso al Teatro San Carlo, che risuonò di deliranti acclamazioni quando il futuro capo del governo d'Italia fece esplicita dichiarazione di assoluta fedeltà e dedizione a Casa Savoia. Al grido di o Roma o morte, nel 1922 le camicie nere di Mussolini conquistano il potere in Italia. Quasi nello stesso periodo Valentino fa richiesta per ottenere la cittadinanza americana. Lo fa perché da Taranto giunge una telefonata dalla mamma. Il servizio di leva lo reclama. Grazie a qualche amico potente e a qualche documento falso, Valentino riesce a diventare cittadino statunitense. Questo fatto lo condanna. La propaganda patriottica e nazionalista del regime non può tollerare il divo traditore, al quale viene fatto sapere di non essere più gradito in patria. Il biografo Leo Pantaleo racconta così questa circostanza. Durante il viaggio che Valentino fece in Europa quell'anno, una tournée promozionale organizzata dagli studios, evitò con grande dispiacere di tornare in Italia. Aveva paura di essere linciato dalla stampa e temeva per la sua incolumità personale. Era accaduto che i suoi film fossero boicottati nelle sale. A Bergamo, per esempio, un drappello di camicie nere fasciste vietò l'ingresso al pubblico per la proiezione del suo film Monsieur Beaucaire. Nelle edicole uscì anche un fascicoletto denigratore, scritto sotto pseudonimo da un certo Gianfranco Sicari, dal titolo Rodolfo Valentino, una fiera rampogna contro il rinnegatore della patria. Il suo secondo film, Lo Sceicco, del 1922, non fa che aumentare la temperatura della passione delle sue fan. Valentino diventa il prototipo del moderno grande amatore, continuatore della leggenda di figure come Don Giovanni o Casanova, in una versione attualizzata e moderna. Fornisce a milioni di americane un nuovo stereotipo, un mezzo di evasione, un ideale cui aggrapparsi per fuggire da realtà spesso monotone. Rodolfo Valentino diventa di fatto un prodotto d'evasione. Più o meno negli anni di Lo Sceicco, intorno al 1922, ad Hollywood Valentino ritrova il vecchio amico Domenico Savino. Il compositore, su suggerimento di Valentino, è stato assunto da alcuni studios per realizzare la colonna sonora di straordinari colossi alla firma Cecil B. DeMille. È un incontro pieno d'affetto e di riconoscenze. Valentino è felice di essersi finalmente sdebitato con l'uomo che, prestandogli il tight, lo aveva salvato dalla strada e indirizzato verso il successo. Sarà però il suo ultimo incontro. Sangue e Arena del 1922 e Aquila Nera del 1925 sono tutti i film in cui compare Rodolfo Valentino come protagonista, i film che alimentano il suo ruolo di sex symbol. La sua fama raggiunge l'apice proprio nel 1926, anno in cui Valentino in gran segreto riesce a tornare in Italia per un saluto ai suoi familiari. Riesce a passare anche da Castellaneta, il suo paese natale. Rita Maldarizzi, una sua vecchia amica d'infanzia, ricorda così la sua visita. Ma la sua casa adesso è vuota? Quella dove lei ha ospitato, sì, Rodolfo Valentino? La mantengo per lusso, perché non lo so quello che può succedere. Pago la donna che me la pulisce. Ed è la casa dove Rodolfo Valentino fu? È venuto. C'è il divano, il letto dove ha dormito Valentino, le tazze dove ha preso il caffè. Magnifico. Magnifico. Tanto che... Ma lei diceva su quel divano hanno pianto... Delle isteriche pazze, una... E chi erano le isteriche pazze? Poi glielo dico. Una era la moglie dell'amministratore dei beni italiani in Tunisia. E che c'entra? Viveva a Padova. È venuto. Mon Dio, i sì fermeri udì. E piangevo con la cretina. Al ritorno negli Stati Uniti, Valentino inizia le riprese del suo nuovo film, Il figlio dello sceicco. Non sa che sarà l'ultimo. Il 20 agosto del 1926 viene ricoverato per un'ulcera gastrica. Deve essere operato nei giorni successivi, ma un attacco di peritonite rende urgentissima l'operazione. Purtroppo la rende anche inutile. Alle 12.10 del 23 agosto, Rodolfo Valentino muore. Quella che sentite in sottofondo è una delle rarissime testimonianze che ci sono rimaste della voce di Rodolfo Valentino. La canzone che sta cantando è una ballata intitolata Kashmiri Love Song, una canzone d'amore triste e malinconica, uno dei pochi mezzi di cui disponiamo per respirare il mito di Rodolfo Valentino. La notizia della sua morte nel 1926 viene accolta con scene di fanatismo e isteria senza precedenti. Si contano addirittura una trentina di suicidi. Due cortei funebri commemorano la sua morte, uno a New York, l'altro a Hollywood. In quello newyorkese, in mezzo a quasi 20.000 persone, si dice ci fosse anche Domenico Savino. Lui, quel mito, aveva contribuito a farlo nascere. Ora, in silenzio, sfila nel corteo funebre che trasforma Rodolfo Valentino in leggenda.